我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是古月。今天带来的是普契尼的三幕歌剧《西部女郎》。19世纪美国金矿开发，在加利福尼亚有一位美丽的姑娘 Mini 开了一家酒吧，当地的警官兰斯向 Mini 求爱遭到拒绝，但 Mini 却暗恋着强盗约翰逊。他和约翰逊定下了约会时间，这时候兰斯率领众淘金者出发追捕强盗拉马瑞斯。不久后兰斯回到酒馆，他向 Mini 揭露约翰逊和拉马瑞斯原本就是同一个人。 Mini 了解到约翰逊的真面目时，打算和对方断交，但当约翰逊中枪受伤走投无路时， Mini 又将他藏身于顶楼，最终被捉要处死。而众淘金者和 Lance 在 Mini 的诉说下同意释放约翰逊，一对有情人从此走向新的生活。接下来就请欣赏内贝尔特·多明戈·米尔奈斯的演唱，祖宾梅塔指挥英国皇家爱乐乐团演出的歌剧《西部女郎》。 Thank you. Ragazzi, v'annunzio Jake Wallace, il cantastorie del campo. La mia mamma, che farà se io non morrò? Se io non morrò? ricordo più, non reggo più, ragazzi, mandatemi via, mandatemi via, son malato, non so di che, mandatemi via, mandatemi via, son rovinato, son stanco di piccone di miniera, voglio la ladro, voglio la ladreria. La sua carta. Sopra un cuore come si porta un fiore, non toccherà più carte. E questo il segno, se s'attardassi a toglierlo impiccato. Domani al campo tu spargi la voce. Ah! Ragazzi, siete buoni! Dai, vai! Vieni qua, via, andiamo, via! Un poker! Nick, gettoni! E il fuoco! Ragazzi, fate largo! Salute! Mr. Ashby dell'agenzia Wells Fargo. Nick, portami da bere. Come sta la ragazza? Grazie, bene. Grazie, bene. Che nuova del bandito? Da tre mesi la posto, non è molto riscosto. Con che ruba come un gran signore, le spagnuolo, la banda di ladri, la pitomana e messicana, che taccia gagliarda sputa pronta a tutto, state in guardia, io mi sdraio, sono stanco, con l'ossa rotte. freneni. Viva Mimì, la nostra Mimì. Mrs. Rans, fra poco, no, Anthony Chinese. Buonasera, Mimì. Buonasera, sarebbe molto meglio. You will make us smile. Mezzanotte vada alle palme. Quella Miguel Torrena è una canaglia. Aspi, non vi fidate. Vendette di donne innamorate. Ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Perfine papagallo siamo lì. Scusa, gente, ci scusa. Che senti? Cosa ne sai, sono vicino. Come cazzo al mio paese, ma povera Kitty! Bene, ma troppo giù, ci sono Cicè, Cicè, Cicè, Cicè, Cicè, Cicè, Cicè, Cicè, e anche nonna se n'è andata. Uno straniero, non l'ho mai visto, sembra di San Francisco, ma chi è sto whisky ed acqua? Whisky ed acqua, chi sono questi maschi? C'è quello che gli ho detto, ma la porca si beve il whisky schietto. In vento, gli aggiusteremo i ricci. Amaro a fé. son messo in cammino. Attratto sol dal fascino dell'oro, e questo il sole non m'ha ingannato. Giocare il vostro nome

preso, a bere son morto. Figlio di cane, mostraci la tua lumina faccia. Tu sei con Ramirez? Un fuggito lo diamo, se volete vi porto sulla sua traccia. Questo sudicio ladro ci inganna. No, non vi inganno. Conosci il nascondiglio? È poco più d'un miglio alla Madonna Cagnara. Vi mostrerò la strada in nome di mia madre, Maria Saltata. Giuro che non vi inganno. Se volete vi porto. Lì ti anterò nel dorso la mia navata. Si va, e annuvolato avremo la tormenta. Legata! E il buon colpo si tenta. A cavallo, a cavallo! Non è preso e nel ballo. Dove si va, dove si va? Si insegue la linea. Bastano a guardare che fa. Al guardiente! Mi sono lasciato prendere per sfiarli. Mi seguono nel bosco i nostri. Questo adrede un fischio. Se c'è il colpo, col fischio rispondete. Quest'uomo sa la traccia di Ramirez. Alla via! Ragazzi, son poi fra poco, quando saranno tornati.

gente che chiami. Johnson di Sacramento è un bandito da strada. Oh, non è vero, lo so, non è vero. Vada di non fidarti troppo un'altra volta. Non è vero, no, è vero. Detto Nick che si era venuto a prender questo sentiero. È vero, Nick, è vero. Mi finisci la traccia, tu non l'hai visto. E qui, forse ho sbagliato, quel sì di una linguaccia. Ma che m'ha detto in giorno, che il bandito sia giunto? La sua donna! La sua donna che... Nina! Nina Miguel Torino! L'amante, quando capimmo d'essere giocati, traemmo dietro Castro prigioniero e prendemmo il sentier verso le palme. Eravamo aspettati. Nivea là ci ha fatto vedere il suo ritratto. A te! Di che ridi? Oh, di nulla, di nulla! Oh, come niente in te! Che gli sei scelto, Nina! Para! Ora, ragazzi, è tardi, buonanotte! Vi lasciamo dormire! Grazie, ora son calma! Andiamo! volete, io resto. No, buonanotte. Buonanotte. Ehi, figlia, che porta! Del tuo Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, avete seccato con questo vostro Ramirez? Son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. E cercatelo dunque, rovistate, come vi pare, e poi di volte bene. se fiera navi poi servarti a lui sì ama ma ti giuro che non parrà oh mano il sangue sulla mano forse m'avrò graffiato no non c'è graffio È là! È là! Ah, lasciami! Lasciami! Lasciami! Mister Chance, accendete! Sacramento, la scelta a voi, a corda, a pistola. Thank you. son pronto. Taglia. A te. Due mani sopra tre. Quante? Due. E a che tu l'adori? È un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Che t'avrò fra le mie braccia. Tre, vedi, ti vinco! Presto già, per pietà! Oh, che cosa sta? Che devo darvi? Oh, no! Andiamo, Dio! Vedo, ma gli chiedi dov'è? Presto già, io chiedo per pietà! questo dannato Johnson della malora non ci sera cacciato ancor fra i piedi. Maledetto cane, pensar che d'allora mentre noi si gelava fra la neve è stato là scaldato dal respiro di Minnie, accarezzato, baciato. Oh, Rance. Del suo stampo avrei voluto a tutti gridar quel che sapevo e non l'avete fatto. È stato proprio un tratto cavalleresco. Ah sì? Ma che ci vede, dimmi, che ci trova la nostra Minnie in quel fantoccio? Qualcosa ci vedrà, amore, amore, paradiso, inferno e quel che è, tutto il dannato mondo s'innamora anche per Minnie. Yeah. Franz, consegno a voi quest'uomo perché sia dato alla comunità. Faccia essa giustizia. Buona fortuna, oh mio bel gentiluomo. E così, Mr. Johnson, come va? Scusate se v'abbiamo disturbato. Pure che facciate presto. Quanto a questo, bastano sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero. E che desiderano tutti, vero? Hai saccheggiato tutto il paese. Ha condannato, rubato e ucciso. No, la squadra di Monterrey bandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane. Pugnalaste alle spalle il povero Tommy. No, non è vero. Sì, non mi mise ad ammalle ucciso un vostro idiote. Assassino, vai! Alla polca, quella notte venisti per rubare. Con gli occhi sorriso di vigna riservati. Che lei ci ha rubato. Ladro, ladro! Con le dita da casse. Armiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, pistola la quale. Sciogliete un braccio, mi scozzo di mia mano. D'altro voglio parlarvi. Libero è lontano. sappiamo. Lasciatela! Lasciatela! andiamo, ragazzi. È necessario. Non parli. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。